IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Facciamo un esempio. Viene costruito un nuovo tipo di aereo e quando il prototipo è pronto arrivano le autorità competenti e può capitare che dicano: quest'uscita di sicurezza non è a norma, i sedili sono troppo ravvicinati, i consumi di cherosene sono eccessivi rispetto agli standard oggi consentiti. Possono dire queste cose perché l'innovazione, quel nuovo aereo, è confrontabile con delle conoscenze che sono alla base di una o più leggi vigenti. Ma con i codici? I programmi che fanno funzionare una macchina intelligente? Come siamo messi? Cosimo Accotto, benvenuto. Bene, grazie. Grazie a voi dell'invito. Visiting scientist al MIT di Boston, filosofo di formazione e di professione. Ormai i filosofi sono stati chiamati in causa nel ragionare sulle nuove tecnologie e tutti i loro possibili riflessi. Allora Cosimo, ci porti dentro questo problema. Sì, la questione non è semplice. Legge e, come dire, regolazione si confrontano con l'innovazione in maniera abbastanza articolata. In genere, diciamo così, il regolatore e la legge cercano una via di mezzo tra il non regolare troppo presto e non regolare troppo tardi. Non possono regolare troppo presto perché altrimenti l'innovazione si blocca, non possono regolare o ragionare su queste cose troppo tardi perché ovviamente potrebbero accadere dei disastri. Allora, finora, diciamo così, è stato sempre così, con però, diciamo, l'arrivo del codice, delle tecnologie digitali e artificiali, la situazione si sta un po' più complicando. C'è un bel libro che consiglio a chi, come dire, è interessato a queste questioni, che si chiama Le tecnologie smart e la fine della legge. Il titolo è un po' robusto. Il titolo è abbastanza catastrofico, diciamo così, ma sostanzialmente la tesi qual è? La tesi è che oggi la tecnologia sta cambiando la natura della legge, cioè nel mentre, diciamo, la legge e i regolatori cercano di tenere a bada la tecnologia, diciamo, la tecnologia dal basso sta invece in qualche modo facendo disruption del concetto stesso di legge. Mi faccia capire bene, ritornando all'esempio di prima, se io faccio un aereo e i sedili sono troppo ravvicinati e quindi non sicuri, quella cosa la vedo e la confronto con una legge. Se invece ci sono una quantità molto ampia di variabili non accessibili, perché io il software non è che vedo, lo vedo come sono i sedili ravvicinati, di fatto il software prefigura una condizione che poi dopo, certo, magari il legislatore non riesce a vedere, ma si è creato un dato di fatto. Esattamente. Il codice, lo racconto nel libro Il Mondo Dato, il codice è diventato oramai una sorta di inconscio invisibile che muove le nostre azioni. Noi non ce ne accorgiamo, ma in realtà è il motore, la forza che determina quello che possiamo o non possiamo fare. Ed è invisibile per molti motivi, spesso è protetto da leggi proprietarie, quindi non si può vedere, piuttosto che attraverso machine learning e deep learning e dentro una cosiddetta black box in cui dentro non è facilmente, come dire, indagabile e visibile, diciamo, lo vediamo dagli effetti che ha. Mentre invece un legislatore dovrebbe vedere quello che poi deve tradurre. Ecco, ma come si può rispondere? Come si fa? Ci sono, secondo me, due aspetti, due dimensioni che vanno assolutamente allertate e in qualche modo rapidamente promosse. Uno, sul fronte del legislatore e del regolatore, prendere coscienza che ci troviamo di fronte, con l'arrivo e l'emergenza del codice, a una situazione nuova che mette, come dire, in crisi il concetto stesso di legge per come l'abbiamo conosciuta finora. Bisogna sancire questa cosa. Il secondo aspetto, e anche questo è un po' negletto, diciamo così, ma secondo me deve essere assolutamente messo in primo piano, è che oggi, essendo, come dire, così rilevante la presenza del codice software e così impattante la presenza del codice software dentro le nostre vite, dentro le nostre economie, dentro le nostre culture, è chiaro che, come dire, i professionisti del codice dovrebbero in qualche modo assolutamente valutare la necessità di un codice deontologico a questo punto, anche di autoregolamentazione. Quindi perché, diciamo, gli avvocati, perché i medici devono attenersi, come dire, a un codice deontologico, e perché questo non debba o non possa valere anche per chi sviluppa software. Oggi, come dire, la questione etica e la questione deontologica legata allo sviluppo software dovrebbe essere, come dire, in primo luogo una presa di coscienza da parte dei professionisti degli sviluppatori di codice. Quello che lei suggerisce, in fondo abbiamo visto che funziona in altre attività in cui è richiesta questa consapevolezza e questa capacità di non aver bisogno di una legge, che poi comunque c'è, ma insomma di autoregolamentazione. Certo, se pensiamo alla professione del medico, ci sono tantissime cose che ne fanno parte come regole di comportamento e che poi certo sono anche arrivate. Se vuoi complessità, con una complessità in più, perché oggi a scrivere software può essere anche un ragazzino di 10 anni che non necessariamente avrà fatto il corso professionale in università, in cui magari incapperà dentro un corso di etica per ingegneri che sviluppano software. Grazie Cosimo Accotto, buon lavoro. A voi e buona continuazione. Abbiamo appena parlato di responsabilità, di sensibilità, insomma, importante, deontologica del singolo progettista. Un altro passo in avanti molto importante può essere e dovrà essere quello di una sensibilità analoga, ma da parte di chi fa impresa. E di questo parliamo con Francesco Samorè. Benvenuto Samorè. Benvenuti, grazie. Segretario generale della Fondazione Bassetti, che è una fondazione che da anni si interessa e è impegnata nel discorso che riguarda la responsabilità sociale delle imprese. Allora, Samorè, possiamo fare un discorso analogo? Ovviamente non è la stessa cosa, però si può fare, credo, no? Assolutamente. Fondazione Bassetti si occupa da 23 anni di responsabilità nell'innovazione. Evidentemente il tema dell'intelligenza artificiale è uno sui quali siamo stati più stimolati, per il motivo che tu stesso dicevi, cioè i sistemi di intelligenza artificiale sono passibili di influire sulla società e quindi sulla storia in una misura paragonabile, e questo è stato autorevolmente detto, alla rivoluzione agricola, alla rivoluzione industriale, almeno una volta che si siano sviluppati, come tutto lascia intendere che sia. In questo senso è evidente che non si tratta di un'innovazione che pone problemi di responsabilità ai singoli, siano essi dei ricercatori o degli imprenditori, ma chiama in causa le responsabilità collettive, così come collettivi sono i processi di innovazione. Sono alcuni ambiti che sono chiamati in causa, che sono più coinvolti dall'intelligenza artificiale. Naturalmente si pensa spesso innanzitutto ai sistemi a guida autonoma, quindi le automobili che si guidano da sole, si pensa ai sistemi di trading e quindi ai trading agent nella finanza, si pensa agli operatori delle biotecnologie. Ti chiedo questo, siccome sono grandi trasformazioni e quindi non è pensabile capire tutto prima, no? Prendiamo un'impresa che stia facendo un grosso rinnovamento di tutti i suoi processi e quindi utilizzando tanti aspetti dell'intelligenza artificiale. Forse un consiglio utile potrebbe essere questo, cioè è chiaro, prestate attenzione a tutte le tecnologie, ai loro costi e certo vedete anche di muovervi con una certa velocità relativa, però non eccessivamente, cioè un 50%, e credo che la percentuale sia buona, dedicatelo anche a capire tutti questi aspetti delle possibili interferenze, perché poi comunque anche sul piano produttivo e quindi economico verranno fuori, e se li avete tralasciati saranno problemi. Assolutamente, questo è il tema dell'anticipatory governance, che è in fatto di innovazione, di responsabilità dell'innovazione, uno dei terreni che sono stati più sperimentati in questi anni, sia in ambito accademico sia nell'ambito degli operatori dell'impresa. E l'idea di poter tentare di non prevedere ma prevenire, premendo l'acceleratore con cautela, una serie di conseguenze che le innovazioni necessariamente portano, fa parte di un tentativo di governance anticipatoria che è ormai un patrimonio di tutti coloro i quali si cimentano con l'innovazione, si pongono il problema della sua responsabilità. Tieni conto che sul terreno dell'intelligenza artificiale esiste un'iniziativa in corso di svolgimento, però che ha già una dimensione mondiale e che coinvolge in 160 paesi più di 400.000 operatori, che è l'iniziativa della IEEE Global Initiative per la considerazione etica nei sistemi di intelligenza artificiale, nei sistemi autonomi. Diamolo, scusa Francesco, molto bene, dovete cercare in rete I come Imola e poi 3 E, metteteci report, metteteci quello che volete, trovate tutti i materiali. Questa è una grandissima organizzazione di ingegneri, no? Con 400.000 soci a livello mondiale. È un istituto per l'elettronica e degli ingegneri elettronici, però naturalmente ha creato una rete ben più vasta, soprattutto su questi temi, proprio per la considerazione che facevamo in partenza. Cioè, già oggi è per esempio all'Università di Oxford abituale incontrare dei filosofi nei dipartimenti di computer science, così come siamo abituati, questo anche a Milano, dove per esempio sede Fondazione Bassetti, a vedere istituti di genomica che incorporano filosofi o persone che hanno saperi umanistici e li mette a confronto con le provette. In campo di intelligenza artificiale questa iniziativa globale si è posta esattamente il tema delle conseguenze etiche. Potremmo anche dire che quando ci fu l'altra grandissima rivoluzione, quella appunto dal 1860 in poi, la grande rivoluzione industriale, tutto ciò non si fece e ne vennero fuori un sacco di guai e di brutte cose, no? Qui siamo enormemente cambiati dal punto di vista culturale e sociale, però insomma la rivoluzione è grossa. Non a caso John Dewey nel periodo fra le due guerre, quindi nel Novecento, quando si erano completamente dispiegate le conseguenze in termini di sviluppo ma anche in termini di rischi percepiti dalla società delle rivoluzioni industriali, diceva: le società tecnologiche generano problemi resistenti ai tentativi di trasformazione nell'ambito delle istituzioni esistenti. John Dewey, filosofo americano. Grazie Francesco e Samone. Grazie a voi e arrivederci a tutti. Insomma, c'è un po' di lavoro da fare, lavoro indispensabile, che però, non so se siete d'accordo, possiede anche quella valenza culturale, sociale, che rende i progetti più interessanti e coinvolgenti. Buona intelligenza a tutti e a tutte per la mail intelligenza AA artificiale, radio24.it.